Monti, che da domani inizia la missione in Europa, sul tappeto ICI, pensioni, lavoro e lotta all'evasione. Piazza Tahrir torna ad incendiarsi, ancora manifestazioni oggi al Cairo e nel fine settimana ci sono stati 20 morti. I festini di Arcore per il Tribunale di Milano, tutte le 29 ragazze coinvolte sono parti offese. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione. Dunque, governo Monti atteso alla prova del primo Consiglio dei Ministri operativo quest'oggi. All'ordine del giorno il decreto su Roma Capitale, ma sono ore di trattative dal punto di vista politico anche per la nomina dei sottosegretari, mentre inizia la settimana nella quale il governo Monti debutterà anche in Europa e le borse oggi non danno segnali incoraggianti. Ma iniziamo dal Consiglio dei Ministri e da Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Alessio. Dunque, come dicevi, oggi è il primo vero Consiglio dei Ministri dell'era Monti, un Consiglio dei Ministri convocato per dare il via libera al decreto legislativo su Roma Capitale, decreto che era in scadenza proprio oggi. Il provvedimento, lo ricordiamo, fa parte della riforma federalista e stabilisce i nuovi poteri che spetteranno all'amministrazione capitolina, ma naturalmente la riunione in corso a Palazzo Chigi sarà anche l'occasione per un confronto fra i vari ministri sulle misure che sono in cantiere, sia quelle per il contenimento dei conti pubblici, sia naturalmente quelle per il rilancio dell'economia di cui si è parlato in questi giorni. Difficilmente oggi invece troverà una soluzione la complessa partita che riguarda la scelta di viceministri e sottosegretari, lo dicevi, per la quale il neo premier è costretto in queste ore a fare i conti con i veti incrociati dei partiti. La questione sarà affrontata probabilmente dopo i due impegni europei che Monti ha in programma in settimana. Non è escluso poi che al rientro in Italia il neo premier decida anche di convocare un nuovo Consiglio dei Ministri, sempre in settimana, forse venerdì, per approvare le prime misure anticrisi. Per ora è tutto, Alessio. Grazie Andrea Viali. E intanto il commento di Sergio Marchionne, numero uno di Fiat, oggi a Londra intervistato a proposito del governo Monti, dice: l'Italia non poteva avere un premier migliore, spero che duri fino alla fine della legislatura. E veniamo però alle prossime mosse di Monti atteso in Europa e quello che sarà il calendario anche delle prossime ore. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Alessio. Una serie di incontri europei che serviranno a Monti non solo per ascoltare le indicazioni di Bruxelles, ma anche per tarare la sua agenda di riforme. Domani il Premier vedrà il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e della Commissione europea Barroso. Giovedì vertice trilaterale con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il Presidente francese Nicolas Sarkozy. 28 e 29 novembre Monti sarà di nuovo a Bruxelles per partecipare alle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin. E ci sarà anche un incontro bilaterale con il Primo Ministro britannico David Cameron. Un obiettivo è dunque rinsaldare il legame con Bruxelles, Berlino e Parigi e soprattutto rassicurare sulla volontà e la capacità del governo di mantenere gli impegni presi. I primi provvedimenti anticrisi che potrebbero già rientrare in un prossimo Consiglio dei Ministri riguarderebbero il ripristino dell'ICI con la contemporanea revisione della tassazione sugli immobili, l'abbassamento drastico della soglia massima per l'uso del contante, l'indicazione di elementi patrimoniali nella dichiarazione dei redditi e anche un possibile aumento dell'IVA. Per le riforme strutturali invece che riguardano pensioni d'anzianità, mercato del lavoro, si prevedono tempi più lunghi. Quanto al metodo, l'intenzione delle Premier sarebbe quella di procedere con pacchetti di riforme che scontentino o accontentino in egual misura sia il PD che il PDL, tutto questo per evitare maggioranze variabili. Ogni provvedimento in sostanza verrebbe compensato da un altro. E per ora da Roma è tutto, a voi. Grazie Alessandra Schepisi, queste dunque le intenzioni o le aspettative attorno al governo Monti, che però ancora non ha scoperto le sue carte. Di concreto invece oggi c'è una borsa, Piazza Affari, che non va bene e sotto pressione ci sono ancora gli spread. Deborah Rosciani. Sì, sui mercati del vecchio continente continua a regnare sovrano il timore per la delicata situazione debitoria. Va male anche Madrid, peraltro, che in questa maniera reagisce alle elezioni terminate con una schiacciante vittoria del Partito Popolare. Sotto pressione di nuovo anche la Francia, dopo che Moody's ha lanciato l'avvertimento che potrebbe tagliare il suo giudizio sul paese tenendo conto degli elevati tassi dei titoli francesi e delle deteriorate condizioni economiche. Su tutta l'Europa pesa anche però quanto accade dall'altra parte dell'oceano, perché anche negli Stati Uniti il quadro è a tinte fosche. La supercommissione incaricata dal Congresso di cercare i risparmi del bilancio pubblico non è ancora riuscita a trovare un accordo per questa caccia a 1.200 miliardi di dollari di risparmi. Secondo il Washington Post potrebbe alzare questa commissione bandiera bianca e dichiarare la propria sconfitta. Tutto questo porta stamattina vendite ricadute fortissime sui listini del vecchio continente. Parigi meno 2,70, Francoforte meno 2,57, Londra meno 2,20, Milano meno 3,46%. Su Milano pesa anche lo stacco dei dividendi di alcune società, che però sono poche. Tra queste c'è Enel e Mediobanca, e il peso dello stacco appunto è relativo. Di sicuro rimane la peggior piazza d'Europa, trascinata al ribasso dalle novità per l'inchiesta sugli appalti Enava, anche Finmeccanica, che anche oggi, dopo i crolli di settimana scorsa, perde il 5,85%. Tensione sul mercato obbligazionario, lo spread fra BTP e Bund è risalito fino a 487 punti base. Questa mattina, Alessio, è tutto. Grazie naturalmente Deborah Rosciani. E dunque Italia, Spagna ma anche Grecia restano nel mirino delle autorità e delle istituzioni economiche, finanziarie e internazionali, a cominciare dall'Europa. Sentiamo. C'è molta attesa qui a Bruxelles per la visita che il nuovo Presidente del Consiglio, Mario Monti, effettuerà domani, con incontri alla Commissione e al Consiglio. Il cambio di governo a Roma, con l'arrivo al potere di una compagine tecnica appoggiata da una larga maggioranza, è stata accolta con favore dalle autorità comunitarie. Finora la Commissione ha avuto nei confronti dell'Italia un doppio messaggio. Da un lato di fiducia per Mario Monti, un ex commissario europeo, dall'altro continuando a fare pressioni sulle forze politiche perché introducano misure per risanare il bilancio e rilanciare l'economia. L'esercizio di equilibrismo, che dovrebbe proseguire anche domani, non è facile, perché si tratta di tenere l'Italia sulla corda senza minare la credibilità del nuovo primo ministro. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Così dunque la complessa partita finanziaria in Europa. Ma tornando in Italia, andando a Milano, c'è da registrare la ripresa di ben due processi che riguardano l'ex, a questo punto, presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Facciamo il punto con Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella. Sì, buongiorno. Il processo Ruby comincia anche per, in realtà, Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti, e comincia con la dichiarazione di un principio destinato, secondo più avvocati, a fare scuola. La tutela della dignità e della libertà della persona umana prevale sulla sola tutela della morale pubblica. Ed è per questo che i giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Milano hanno dichiarato questa mattina parti offese del dibattimento che si è aperto contro il direttore del TG4, l'agente di VIP e la consigliera regionale, tutte e 32 le ragazze delle feste di Arcore. Contrari invece i difensori degli imputati. Nessuna delle olgettine né dei tre imputati era questa mattina in aula. Mercoledì invece riprenderà il dibattimento nella vicenda Ruby anche per l'ormai ex presidente della Consiglio Silvio Berlusconi, tra gli imputati anche questo pomeriggio nel processo per i diritti TV Mediaset. Sarà la prima udienza da ex premier per l'imputato Silvio Berlusconi, che dal 28 novembre dovrà fronteggiare anche il processo Mills, quello più vicino a sentenza. E per ora dal Tribunale di Milano è tutto. Grazie Raffaella Calandra. C'è un'altra inchiesta che riguarda Finmeccanica, un'inchiesta legata agli appalti Enav. Il titolo di Finmeccanica sta andando molto male in borsa, quindi questa è la reazione dei mercati, come abbiamo detto. Intanto il presidente Pierfrancesco Guardaglini ha convocato con la massima urgenza un consiglio di amministrazione straordinario in cui, a quanto si apprende, nessuna ipotesi può essere esclusa. Ma ecco quali sono gli ultimi sviluppi di questa inchiesta. Mazzette a pubblici ufficiali, false fatturazioni per milioni di euro, fondi neri per i politici di riferimento. Dopo l'accelerazione sugli appalti Enav, con gli arresti di sabato scorso e i nomi di altri 5 manager nella lista degli indagati, i magistrati della Procura di Roma puntano dritti al secondo livello, quello che chiama in causa direttamente la galassia Finmeccanica, i suoi vertici e i suoi referenti politici. Alcuni forse già individuati e i cui nomi sarebbero coperti da omissis nelle carte processuali. A spiegare certi meccanismi sarebbe stato proprio Lorenzo Borgogni, il direttore delle relazioni esterne di Finmeccanica, autosospesosi ieri dall'incarico, per il quale il GIP ha respinto la richiesta d'arresto. «Sono io il collettore dei favori ai politici, nomine, assunzioni, appalti», avrebbe rivelato Borgogni ai PM di Napoli, titolari dell'inchiesta sugli appalti esteri di Finmeccanica. Tre interrogatori e un altro già fissato, i cui verbali sono stati trasmessi anche ai magistrati romani, che lasciano prevedere svolte clamorose nelle indagini. Ho sempre agito d'accordo con il presidente Guarguaglini, ha precisato tra le altre cose Borgogni. E ai piani alti di Finmeccanica, ripetono da sabato le voci più accreditate, siamo alla resa dei conti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra i nomi agli atti figurano quelli di politici come Ignazio La Russa, Giancarlo Giorgetti, Altero Matteoli, Carlo Giovanardi. Mi vanto di aver dato un nominativo al governo, si difende Giovanardi ai nostri microfoni. Sentiamolo, l'ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Questa cosa è già stata fatta circa 6 mesi fa, stesso identico titolo, stessa risposta che ho dato allora. Mi vanto, mi onoro come uomo delle istituzioni di aver fatto quello che un uomo delle istituzioni deve fare, cioè dare a chi nel governo è preposto alle nomine pubbliche un nominativo di una persona che ho controllato prima non avesse carichi pendenti, che aveva tutte le situazioni di professionalità, di esperienza, di ricoprire un certo incarico. Quindi lei, senatore, difende il sistema di segnalazione? Non è un sistema, ma scusi, non è un sistema. Al capo dello Stato, prima, chi ha segnalato i ministri che sono entrati a far parte del governo? Adesso al presidente Monti, chi è che sta segnalando i sottosegretari che fanno parte del governo? Il sospetto sul quale i magistrati stanno indagando è che dietro a questa sorta di spartizione politica si possano nascondere anche appalti pilotati, mazzette. Ma scusi, ma io perseguirò i reati e non i sospetti. Se trovano, ci sono situazioni di corruzione, di concussione, di tangenti, apriranno un'azione penale nei confronti di quelli che hanno rubato, che hanno preso le tangenti. E ora il momento della nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Impennata di quasi il 60%. Crescono a dismisura le società intestate a prestanome al solo scopo di non pagare le tasse. Nei primi 9 mesi del 2011 il numero di new co costituite sotto forma di SRL e SPA aventi nella compagine teste di legno è cresciuto del 58,7%. In assoluto sono state costituite ben 3.085 società di capitali in sostituzione di quelle precedenti, aventi come amministratori e soci giovani, per lo più donne, privi di qualunque competenza e soprattutto nulla tenenti. La denuncia arriva dall'Associazione Contribuenti Italiani, tutto ciò per evadere il fisco e sfuggire al principio della ristretta base azionaria introdotto dalla Corte di Cassazione, che consente di recuperare le tasse evase direttamente in capo ai soci di capitale. Come teste di legno vengono utilizzati soprattutto i giovani, per lo più donne, che non trovano sbocco nel mondo del lavoro e che, ignari delle conseguenze, accettano di diventare soci amministratori di facciata di gente senza scrupoli che cerca di ripulirsi da fallimenti, reati economici o più semplicemente per continuare a evadere il fisco. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura di questa prima parte di GR24 parliamo di calcio, con la giornata di Serie A ieri che ha proiettato in vetta la Juventus con il Milan. Però Dario Ceccarelli, che è qua in studio con noi, buongiorno, che è occupato in Champions e quindi insomma... Sì, intanto una domenica di festa, beh, buongiorno a tutti, per la Juventus che finalmente dopo 22 giorni, perché era stata rinviata la partita con Napoli, la Juventus batte alla grande il Palermo 3-0 in un modo che così rivitalizza i tifosi e entusiasma, perché fa vedere che il progetto Conte funziona, sta decollando e dà l'impressione proprio di quelle squadre, quello spirito di squadra delle grandi formazioni della Juventus, cioè quelle di Lippi, di Trapattoni, dove magari, non so, si sbaglia un gol, se, per esempio Buffon ha dovuto intervenire 2 o 3 volte per frenare le incursioni del Palermo, però poi viene fuori la squadra, si vede Pepe, Marchisio, Matri, insomma tra gente che ha quell'aggressività, quella voglia di saltare l'ostacolo, che è lo spirito di una squadra che sta venendo fuori. In questo, tra l'altro, faccio notare che lo stadio juventino è sempre pieno. Era nato piccolo perché si temeva che non riuscisse a contenere tutti i tifosi, cioè perché ci fossero pochi tifosi. In realtà è una festa continua. Questa è una scelta azzeccata. È una scelta azzeccata, di sicuro. E poi la vittoria, la Juventus è stata favorita dalla Fiorentina, che ha frenato il Milan, e poi il Parma, che ha battuto l'Udinese, e quindi la Juventus è solo con la Lazio Chelsea a 22 e dicevamo punti. Che il Milan però c'ha anche un po' la testa rivolta verso l'importante impegno di Champions. Esatto, il mercoledì c'è questa sfida mondiale, perché Milan-Barcellona è una sfida che richiama così tutti gli appassionati. Si pensa che ci saranno 150 milioni di spettatori per vedere questo evento. È una sfida assoluta perché sono due squadre che sono al top, il Barcellona ancora più del Milan, però il Milan ha un grande passato alle spalle di Champions. E poi c'è questa rivalità in particolare tra Ibrahimovic e Pep Guardiola, cioè l'allenatore del Barcellona. C'è stata questa autobiografia di Ibrahimovic dove ha detto cose irrepetibili su Pep Guardiola. Lui da signore ha risposto che non è un problema, eccetera eccetera, però ci sono scintille e l'attesa è tanta. Vorrei ricordare in chiusura così un giocatore d'altri tempi, Mario Martiradonna, che era un difensore degli anni 70 del Cagliari, dello Scudetto, con Domenghini, Riva, quella squadra che fece sognare un sacco di bambini. Era nell'album Panini. Martiradonna aveva quella faccia da cattivo, da pugile, con naso schiacciato. È morto a 73 anni per una malattia, è morto povero, come succedeva ancora a quei calciatori degli anni 60-70. Poi dopo è cambiato tutto, però mi piace ricordarlo in un momento. Grazie. 13:19 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato della situazione economica, parte male la settimana a Piazza Affari, giù gli indici sotto pressione, lo spread tra i titoli sprofonda, Finmeccanica travolta dall'inchiesta, via libera al decreto su Roma Capitale, debutta così il Consiglio dei Ministri del neo governo Monti, che da domani inizia la missione in Europa. Sul tappeto l'ICI, le pensioni, la lotta all'evasione fiscale, e poi udienza al processo a Fede, Mora e Minetti a Milano per il tribunale. Tutte le 29 ragazze coinvolte sono parti offese. Adesso le altre notizie. A cominciare dalle notizie che vengono dall'Egitto e da Piazza Tahrir al Cairo, dove sono riprese le manifestazioni con un bilancio pesantissimo degli scontri del fine settimana. Si parla di oltre 20 morti e migliaia di feriti. Che cosa sta di nuovo succedendo? Lo chiediamo ad Alberto Negri, inviato più volte proprio al Cairo in Egitto. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, che cosa sta succedendo? Chi pensava che insomma, con i passaggi politici che c'erano stati nelle ultime settimane la situazione fosse sotto controllo, invece si sbagliava. Ma sì, in realtà le forze armate egiziane che hanno in mano il potere e il governo transitorio del primo ministro Sam Sharaf stanno esaurendo un po' il capitale di credibilità e di fiducia che avevano acquistato nei mesi scorsi. Devono condurre il paese alle elezioni. Le elezioni parlamentari cominceranno al primo turno il 28 marzo, cioè il 28 novembre, cioè fra una settimana. Ad aprile o addirittura l'anno prossimo sono state rinviate quelle presidenziali. Ma cos'è che sta in realtà scatenando la rabbia di Piazza Tahrir, ma anche dei partiti politici? Il fatto che i militari non vogliano un effettivo trasferimento dei poteri, che vogliono un po' porsi sopra al governo civile, a un eventuale governo civile, che vogliono in qualche modo mettere sotto tutela questo processo politico. Insomma, il Piazza Tahrir si sente tradita, e sente tradita la rivoluzione che ha battuto Mubarak nel febbraio scorso. Grazie per il momento ad Alberto Negri. Adesso ci trasferiamo in Spagna. Come ci si aspettava, è arrivata una netta vittoria per il candidato del centrodestra Mariano Rajoy alle elezioni parlamentari. Trionfo con 186 seggi, 44,6% dei voti per il suo Partito Popolare, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei deputati. Debacle invece per i socialisti orfani di Zapatero, che hanno ottenuto il peggior risultato della loro storia, 110 seggi, il 28,7%. Ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore a Madrid in questi giorni, Luca Veronese. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Quali sono le analisi e i commenti in queste ore sui giornali, sulla stampa spagnola, e le prossime mosse di Rajoy? Sì, tutti guardano a cosa farà il nuovo primo ministro della Spagna. Con una maggioranza così ampia può governare da solo, quindi all'interno non dovrebbe avere problemi. I problemi vengono tutti dall'esterno, dalla crisi finanziaria che mette la Spagna davvero in difficoltà in queste ore, già con i rendimenti dei titoli pubblici molto alti, e la borsa che perde anche qui a Madrid. Certo, Rajoy dovrà in qualche modo coinvolgere nelle sue nuove politiche anche i partiti minori, gli autonomisti regionali, almeno quelli di Catalogna e del Paese Basco. Questo perché la prima mossa che ha annunciato e che si appresta a mettere in atto è quella di ridurre il deficit delle regioni autonome, che è andato ormai fuori controllo. Per farlo vuole addirittura modificare la Costituzione e permettendo dei tetti appunto alla spesa delle regioni, ma dovrà fare una retromarcia completa rispetto alle politiche di Zapatero, che invece erano molto larghe e molto permissive nei confronti della spesa delle regioni. Luca, c'è anche il fronte europeo, anche per la Spagna. Italia, Grecia e Spagna restano sotto osservazione, le elezioni non sono bastate a tranquillizzare i mercati. Sì, la Spagna sembrava avviata con un processo politico democratico tranquillo a guadagnare anche la fiducia dei mercati. Poi è bastato che in Italia e in Grecia si insediasse un governo tecnico e quindi più credibile, e non perché tecnico ma perché ha risolto in qualche modo le crisi in atto. Perché è bastato appunto questo perché le pressioni dei mercati siano tornate a occuparsi della Spagna in modo molto pesante. I mercati in qualche modo hanno già scontato l'elezione di Rajoy, che era ampiamente prevista. Forse la maggioranza così ampia potrà contribuire a tranquillizzare i mercati. E certo, la Spagna è sotto pressione, dovrà cercare subito una sponda in Europa. Rajoy ha già parlato più volte con anche la Merkel e quindi dovrebbe riuscire a mettere a punto anche un piano di salvataggio se le cose dovessero peggiorare, come purtroppo tutto lascia pensare, con gli spread che anche oggi sfiorano quota 500. Grazie Luca Veronese, questo è il minimo comune denominatore tra la situazione italiana e quella spagnola. Ma rientriamo proprio in Italia con la cronaca per gli sviluppi del caso Scazzi. Cosima Serrano e sua figlia Sabrina Misseri saranno processate dalla Corte d'Assise di Taranto con l'accusa di aver ucciso la quindicenne Sara Scazzi, ricorderete, il 26 agosto del 2010 ad Avetrana. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Taranto. La prima udienza si terrà il 10 gennaio 2012, il GUP ha rinviato a giudizio in tutto 9 imputati, tra i quali Michele Misseri, che però risponderà solo di concorso in soppressione di cadavere. Cambiamo decisamente argomento. Ieri a Milano è tornata la domenica ecologica, la giornata cioè senza auto, spazio dunque a pedalate e a passeggiate, con un'idea da parte della giunta Pisapia non solo di combattere l'inquinamento ma anche di limitare in sé l'uso dell'auto. Il divieto di utilizzo dell'auto a Milano si è trasformato in una vivace giornata piena di appuntamenti. La città domenica era avvolta nella nebbia, con lo sferragliare dei tram, le luci gialle, una moltitudine di bici e Dario Fo che teneva una lezio da Nobel su Raffaello, Tintoretto e Pier della Francesca in Brera, con migliaia di milanesi in fila per entrare. Le piscine erano aperte e ci si poteva andare gratis, e per strada i bambini giocavano a bandiera. C'erano concerti, mostre, laboratori. Le cifre parlano chiaro, 15.000 ingressi tra musei e teatri, una cifra da capogiro se pensate che normalmente Milano nel fine settimana si svuota. Dal 16 gennaio Milano sarà anche apripista di un'altra sperimentazione, cioè la congestion charge. Per entrare in città in macchina si dovrà pagare 5 euro. Sarà un provvedimento sperimentale per 18 mesi e che riguarderà circa 1.700.000 pendolari. Per capire come potrebbe andare a finire questa storia siamo andati a Stoccolma. La tassa è stata introdotta dal Parlamento svedese nel 2006 dopo un referendum al termine di un periodo di prova durato un anno. Come sta andando? Eva Soderberg è l'assessore che si occupa del traffico. We first implemented it as a trial. Per prima cosa, come primo effetto, abbiamo ovviamente visto una diminuzione del traffico interno alla città del 20%. Dopo il primo anno di sperimentazione abbiamo messo regole più severe e ci siamo accorti che il traffico in ingresso in città era ridotto, calato al 70-80%. 6 mesi prima di introdurre la tassa abbiamo fatto un piano di incremento massiccio di trasporto pubblico. Volevamo che la gente cominciasse ad avere l'opportunità di scegliere come entrare in città. Cristina Carpinelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E chiudiamo con un appuntamento al via da oggi la 10ª edizione della Settimana della Cultura d'Impresa promossa da Confindustria. E l'impresa fa cultura è il tema dell'incontro in ricordo del grande poeta Attilio Bertolucci nel centenario della sua nascita, il letterato che collaborò con l'Eni di Enrico Mattei. A conclusione dell'incontro, la proiezione del film Il Canale di Bernardo Bertolucci, che dà l'avvio alla rassegna cinematografica Compagni di Strada, in programma fino al 25 novembre. Il direttore dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa di Ivrea, Sergio Toffetti, al microfono di Adriana Fracchia. L'archivio è nato nel 2006 ed è uno dei settori del Centro Sperimentale di Cinematografia, ed è nato in collaborazione con la Regione Piemonte, col Comune di Ivrea e con Telecom, e gestisce le collezioni film di una parte consistente, insomma, della grande impresa in Italia. Ci sono i film di Fiat, Olivetti, Edison, Innocenti, Breda, Martini Rossi, Birra Peroni, Marzotto, Recchi Costruzioni, poi di enti di Stato come l'Enea, l'Istituto del Commercio Estero, eccetera, eccetera. E ci sono circa 60.000 bobine di film. Si occupa di un settore del cinema e della storia dell'impresa al tempo stesso che era caduto completamente nel dimenticatoio. Perché da un lato l'impresa si filma fin dagli inizi del Novecento ed oggi rivedere queste immagini si rivede un pezzo della storia economica e sociale del nostro paese nel Novecento. E d'altro canto, per quanto riguarda la storia del cinema, molti cineasti importanti e molti intellettuali hanno lavorato per il cinema d'impresa, da Pasolini che faceva i testi per Olmi, da Sciascia che ha scritto il testo per Eni, a Franco Fortini che ha lavorato sia per l'Olivetti che per l'Italsider che per la Fiat. E l'industria non produce soltanto beni e servizi, ma produceva anche un'immagine del mondo. Ed è tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo all'Italia in controluce, da Alessio Maurizio in studio, Fabio Cantadori in regia, l'augurio di una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.